quattro armonico dei Sigur Rós ormai è noto, questa sensazione di sospensione gravitazionale che prende a me, ma a molti altri, un progetto che riesce ad essere atemporale, così astratto rispetto a questa giungla d'asfalto che è la nostra vita. Si chiama Atta, l'ultimo capolavoro per questi tre islandesi. Che vado a citare ancora una volta, Jon Thor Birgisson alla voce, alla chitarra. Jonsi ha questo soprannome da molto tempo. Georg Holm, basso. Kjartan Svensson, tastiere. Sigur Rós, ricordiamo, Victory Rose, Rosa Vittoria, un nome dedicato alla sorella minore dello stesso fondatore e cantante. Il perché abbia deciso di dedicarlo alla sorella, non so se dietro c'è un lutto oppure meno, non lo so questo sinceramente. Fatto sta che Sigur Rós rimangono un vero e proprio caso a parte nel mondo del, possiamo dirlo, del rock evoluto, del post rock, ma secondo me c'è anche di molto neoclassico nelle note di Sigur Rós. Sentite lo splendore di questa Fall che ci ascolteremo il prossimo lunedì. Allora, salto enorme geografico ma anche musicale, e quindi anche per oggi si va in Cina a vedere, a conoscere, a selezionare prodotti che vengono da laggiù, prodotti musicali ovviamente. Altro gruppo ovviamente ultrasotterraneo, almeno per quello che mi riguarda, si chiamano The Fuzz. Scritto The Fuzz, ovviamente, The Fuzz. Anche loro nell'albero della Dark Wave, del post-punk, e li conosciamo attraverso Behind the Tears e Control. Sei在哭泣，谁在哭泣？ anche oggi una breve sortita in quel della Cina attraverso The Fats con un loro lavoro del 2016 del nome The Root of Innocence. Saluto Marco Mascia di Progetto Sonoro, Mariano Buffetti. Marcello Buffetti di Monum. Naturalmente tutto ciò è abbastanza derivativo, c'è chi ha in mente i primissimi U2, quelli di Boy October, io personalmente invece gli U2 ci possono anche stare, ma per esempio questa traccia Control mi ha ricordato i New Order di Power, Corruption e Lies, ma d'altronde qui stiamo parlando di post-punk per quanto riguarda i tempi, il basso, la batteria e anche un'impostazione vocale che ricorda quei tempi. Ma il fatto che il tutto accada in Cina personalmente mi riempie di curiosità e di questo vado a ringraziare ancora una volta Rosario Rizzo di avermi procurato questo interessante materiale. Prima proposta italiana per quanto riguarda questa prima puntata di Disorder del 2024, siamo entrati nel 22esimo anno di vita, iniziamo nel lontano 2002, ricordiamo Prove Tecniche invece 10 anni prima, 1992. Siamo quindi abbastanza stagionati. Dicevo, primo progetto italiano e sono i napoletani Hashcode. Ammetto di averli scoperti, apprezzati soprattutto in colpevole ritardo e quindi bisogna mettere, come dire, riparo a tale mancanza. Visti recentemente dal vivo insieme a Disselection, un bellissimo lab qui a Roma, ormai lo scorso anno. Comincio un po' ad analizzare la parte finale della carriera degli Hashcode e poi tornerò indietro a ritroso per riniziare poi attraverso i primissimi passi. E quindi questa sera ci andiamo ad ascoltare tre tracce estratte da un EP di 6 pezzi dal nome Fear del 2021 e ci ascoltiamo l'omonima Fear, Indifference e Cross the Waters.